da ci sto pensando, insomma. Ho finito. Il pilota proprio fa capo il mio momento, capisci? Per nessuno, non ce n'è per nessuno, guarda, la armonica che tira fuori, oppure aggancia l'uscita per dire del telefonino, la aggancia direttamente alla capsula del microfono, c'è buonanotte, la armonica, sai come si aprono, quattro da una parte e quattro dall'altra. Vabbè, noi due non abbiamo problemi. A te Gianni molto ti arriva. Sì, sempre lo stesso segnale, 9.30, spaccato. Sul più del 9.30. Sì, mi ha mandato un messaggio, tu vicino a casa, 9.50, quindi sempre il solito tran tran vicino a lui, già lo so, che zona è, non c'è problema. Lasciatelo fare, tanto prima o poi già prende fuoco lui e le radio. Attenzione, pure il buco. No, da solo si mette fuoco, già, magari quando sta usando le radio si incendia tutto. Io ti dico la faccia, Sarrano. Che schifo, ragazzi. Due gatti, se si può andare avanti in questa maniera, per carità. Sta venendo la voglia di togliere di nuovo tutto, lampazzi tutta la mondezza. Natalino è poco più sopra, però si sente il fischio sotto, capito? Come sono due segnali accoppiati. Aspetta, a me mi senti, sì. Ma è qua vicino, perché se non passo io è vicino. Vedere. No, qua già passate, vi dà fastidio, già passate. L'unico che passa bene è Marco e Antonello qua. Gli altri si sente il fischio sotto, ma già vi sento. E io lo passo. Aspetta, un consiglio, quando vi metto la portante, spostatevi 2 kHz e noi vi sentiamo tutti, quindi siete a posto. Lui rimane più basso. Dimmi, io e Gianni ci abbiamo il Galaxy uguale, mi basta che abbasso il pomello più 10 o meno 10, com'è che sono senza occhiali già, ha finito di campare. No, basta 2 kHz, te lo sto dicendo. Te lo dico che facevo io con il Alghero. In ballata le facevo impazzire, facevo per dire, anche con 10 watt, 50 watt, quello che era, in più la alternata, eccetera, eccetera. Ti ricordi come schiattavano, e tu, cazzo, ridendo, non ce la facevi più, ridendo. Antonello li stai ammazzando, detto questo è niente, bisogna sapere usare gli apparecchi, avere anche, sapere anche i segreti, non sono un altro. Bastano pochi watt, se tu ti sposti di un paio di kHz, la portante è fottuta. Gli apparecchi si usano per parlare, non per rompere le scatole alla gente, Antonello, la pensiamo diversamente. Appunto, sto dicendo, se lui quando ce l'ha portante ti sposti di 2 kHz, ci sentiamo solo lui rimane fisso. Se c'è un canale, cioè un apparecchio normale, non si può spostare di 2 kHz, 2-3 kHz, quindi è fottuto. Noi ci possiamo spostare, lui no. E lui deve smetterla, perché se no qui raccogliamo le firme e le mandiamo le scomposte a casa. Se non la smette, perché tanto, meno male, ci sarà che parte. Ma sai cos'è? Se non la smette, il giorno usciamo e rubizzichemmo. E diciamo di non farlo più al signorino. Spostati solo dalla parte e... Prego. C'è la solita portante che ne ho già parlato con te, dai, il segnale è quello, alla Teloce Fondoscala, al Monte Fondoscala, qua è 9.20, dai, io mi sono stufato, vi saluto tutti, arrangetevi, ciao. Ah, di nuovo da capo, siamo iniziati, abbiamo iniziato la situazione, dai. Sono con la trattoria, sono acceso in questo momento, non ho sentito niente, chi c'è da qua? Chi c'è? Siamo io, Gianni, Antonio Bombolo, Natalino, Antonello, Marco, però c'è questa portante ed è una rottura di scatola. Ma perché te ne devi andare? Spostiamoci in un canale di sopra o qualche altro canale, così non ci rompe più le scatole. Ma dov'è questa portante? Non ho sentito niente. Vabbè, roba, se te la dava, come fai a sentire? Te lo sto dicendo io. Supera il più del 9.30, va bene. Perché ce l'hai sopra, Gianni, capisci a me, ce l'hai sopra, sopra. Se tu guardi in alto, se tu vai nel poggiolo, lato strada, e guardi in alto, capisci a me, no? In alto, verso casa di Andrea, su in alto. E io già ho capito che intendi, no? Non è che non l'ho capito. E allora, solo da lì può arrivare, no? Non ci sono altre cose, non è qua la zona nostra, capito? Non è alla Teloce, perché non è alla Teloce, non è al monte, a chi non vede nessuno è in un altro punto del monte, capito? Va bene, l'hanno già detto comunque, non lo sto dicendo io, attenzione, l'ha detto qualcuno che evidentemente l'ha pizzicato, ma se continua cosa vuoi ti voce, io non devo stare a... Io entro in radio per fare due chiacchiere per divertirmi, poi sembra che sia sempre io a rompere l'anima alla gente, quindi se continua io chiudo tutto e me ne vado. Spostiamoci come l'altro giorno, non ci ha seguito. Avete controllato quante bande ha la portante? Tipo una banda sopra, una sotto, due bande sopra, due bande sotto, no? Ciao comunque Marco, ciao Gianni, poi non so chi ci sia di altro, Antonello, ho sentito che mi avete detto che c'è, comunque qua adesso tutto tranquillo. Ciao Robert. Ciao Roberto. Ma non per le scatole, perché siamo anche un bel po', stasera possiamo parlare tranquillamente, invece c'è sempre chi rompe le scatole, vabbè, pazienza. Dai, ok, aspetta un attimo che ciao vabbè, saluto lì. Esco un secondo e arrivo subito. Sto uscendo a prendere qualche cosa dello spin, due minuti. E poi arrivo subito. Quindi vi faccio compagnia. Se non sei uscito poco fa. Sono tutto pieno di sgrassatore, ragazzi, mi devo sgrassare. Con la birra si sgrassami. Ah, devo pigliare anche quella. Bravo che me l'hai ricordato la verità, perché non l'ho presa tutto quanto il giorno oggi, no? Non ho comprato neanche una, adesso me le prendo. Beh, l'alcol è sgrassante, no? In un certo senso, vai Robè, io sono in bianco che sto mangiando, ciao. Tu se bevi la birra con lo sgrassatore già lo fai l'affare, cazzo. Uia, t'ha ammattato senza niente. No, adesso quella me la prendo, no? Ho bevuto un tubo tutto quanto il giorno. Ho bevuto tutta la cucina con sgrassatore perché ho diventato una cucina nuova. E quindi anche sotto la vela eccetera eccetera, non vorrei cazzo che questi quando vengono a portarsela via ne scendono tutti i piedi di grasso, pantaloni e magliette, e quindi ho lavato tutto. Insomma non posso farlo, devo metterla dentro la camera, chiudercela, aprire la finestra e io devo stare, hai capito, finché non sventia l'aria. Vabbè, ci stiamo a fare 10 minuti, dai, poi scendere giù e vi piglio anche un paio di arancia, tanto qui c'è solo, che la giugava lì, e li piglia un sugo di frutta. Ci stiamo a fare 10 minuti, dai, un quarto d'ora, massimo non di più. Va bene, quindi riepiloghiamo: Gianni, Marco, Antonio è andato via, Claudio e poi chi c'è? Antonio Popolo, Giulio, avanti Giulio, dai. No, continuate, non mi interessa, così non mi interessa. Ciao Robè, a voi tutti gli altri l'avevo già salutato, dai, rimango qua e l'ascolto, continuate pure, vai Robè. Ciao Giulio, ben sentito, ho visto il messaggio che mi hai mandato, purtroppo te l'ho scritto, non lo conoscevo, solo come radio l'ho conosciuta quella persona, mi dispiace per quel poco che l'ho conosciuto, tu sicuramente l'hai conosciuto molto più di me, come qualche altro qua in radio. Io l'ho conosciuto, eravamo amici da almeno 60 anni. Tu pensa che praticavamo lo stesso sport negli anni 58-60, da allora che avevamo iniziato, al 58. Lui faceva il mezzofondo, io facevo la marcia, però lui in una società, io in un'altra, e ci scontravamo così tra società, no? Perché allora le gare si effettuavano a punteggio, per cui da allora che l'ho conosciuto, poi veniva sempre a trovarmi, a fare gnameria, insomma, era un grande amico, una grande persona, seria, onesta soprattutto, non ci può dire di più, ecco, perché non ci sarebbero parole per vantarlo. Va bene, dai, continuate, riprendi Robert, continuate, rimanga l'ascolto. Sì, ok, dai. Vabbè, cambiamo argomento, purtroppo la vita funziona così, ogni tanto qualcuno va via e basta. Ok, e Antonio Bombo, date il mic. Capo, è la stessa cosa pure io, va. Pure io lo conoscevo perché abitavo lì, quindi lo vedevo sempre le processioni, cioè ci conoscevamo bene. A me mi sgridava, ogni tanto mi sgridava perché io, cioè, già ero birichino lì a Dolce, mi mettevo a pompare un po' e io gli arrivavo un po' saturo. Ah, stacca che sei saturo, quando ti trovo ti do due scappelluti. Vabbè. Se devo dire la mia, io lo conosco una quarantina d'anni. Ho avuto il negozio di bombole lì vicino a Vasco, eccetera, eccetera. L'ho conosciuto quanto tempo, dai, facevo le cavalcate, mi ricordo che lo vedevo sempre alla cavalcata, lui, Agostino Ago, poi c'era Bruno Ragano, la Freccia, insomma, con tutti, dai, quelli vecchi c'erano tutti. Ma come è andato via? Ma l'ha saputo che è morto Marchissimo. Sono qua io, c'è problema. Sto facendo un po' di conteggi mentali. Metti centrato tu, non la posso più portare. Non lo so, dai. Ok, facciamo finta di niente. Cosa ha detto Gianni? Non ho capito. Aspetta, è entrato Bruno un attimino. Bruno, sì, è morto Banchisi. Oggi c'è il funerale, alle 3 sono andato anche al funerale. Ma parlando stanno? Sì, sta parlando Bruno. Aspetta, passiamo un attimino sul canale 15, scusate. Ti conviene farlo spostare perché io lo sento, sicuramente non arriva da nessuna parte. Ciao Giulio, buonasera, avanti se vuoi rientrare. No, c'è Vanetta, dai, caso vai dopo se cambia la situazione, va bene. Sì, nemmeno io lo sento Bruno, comunque continuate, dai. Quindi guarda, io sono in correzione, se mi rilanciano riprendo, ma non fare questo o così a me non è che mi piaccia, quindi, però... Questa storia sta andando avanti da troppo tempo, bisogna trovare una soluzione. Non so, vabbè. Avanti Antonio, riprendi. Capa, no, tranquillo, sta a posto. Capa. Pure io, già lo conoscevo abbastanza bene. Ci conoscevamo di persona un bel di volte. Ok, riprendi o... Chi è che ci è rimasto in parcheggio? Boh, non me lo ricordo. Pompetta! E dai, Pompetta? Pomponi, io lo chiamo così. No, dove è andato a coso? A Rosfield diceva a prendere roba. Gianni è con coso, con Bruno, sono spostati forse per dirgli la notizia di questa persona, poverino, che è morta. E basta, sono rimasti io, tu, Giulio che l'ascolta, e Claudio, anche lui è un po' rattrezzato. Futti di neglare, c'è cosa di mezzo. Ho capito, ma cioè siamo a casa così per scambiare due chiacchiere, senza far niente. Subentrano anche questi rompiscatole, cosa devi fare? Mi dà fastidio a me, capito? Non perché possono anche sovramodulare e fare, non è che mi interessa, io sto andando col baracchino, la sua potenza normale, il segnale già lo vedi, quindi non mi interessa. Se deve disturbare, che disturbi pure, io sto in quel rix, non mi fa roba più, basta, ne sono stufo di questi discorsi, di queste cose. Sono sempre nella bocca di tutti, nel mirino di tutti, mi sono stufato, ma... Sono rientrato! Vabbè, guarda la fotografia, l'hai guardata? È quella persona, eh! Ma noleggiarmi l'ho fatto lo strumento. Sì, è abbastanza preciso quello esterno, avevi ragione. Proprio qualche millimetro, ma neanche si vede, neanche si vede. Va bene come strumento, quindi ti puoi basare anche sullo strumento. Va bene, non lo sapevo. L'hai alzato? Sì, l'ho messo a 12 watt, di portante bianca a 15 modulati. Già va bene, va bene, io credo va benissimo. Va la grande va. No, è perfetta questa, non c'è problemi. Nuova nuova dentro. Ma ce l'ho aperta, non si sente niente, vedi. Non ronza, bella silenziosa. No, è bella, bella. Va bene, dai. Roberto, riprendi e fai girare, dai. Ma adesso sei normale, qua. Sì, no, non ho più, ho staccato tutto il fegato, li ho messi dentro l'armadio, te l'ho detto, forse non ci riesco, non so, tutto, antenna diretta, no, tutto, no. Erano solo delle prove che stavo facendo con quel del remeter, non spreco un lineare da di quei livelli per attaccare qua, no, non ne ho bisogno, sta radio lineare già, posso aumentare, sì, ho provato, sai quanto sale, sino a 25 watt ne hai messa, altro che 15. No, 15 dalla casa, poi se tu li vuoi rompere i finali, ti vuoi fare surriscaldare, puoi anche mettere la 25, non c'è, nessuno ti vieta di farlo, ma la casa allora sino a 15 watt. Infatti io siccome sono solidale con la radio perché non devo spacciare niente, l'ho messa a 12 watt, 14 modulati, 15, col fischio 15 watt, sul parlato siamo intorno ai 14, 13, 14, va bene così, l'importante bianca è 12 comunque. La voglia va bene. Io già arrivo, capo al mondo arrivi così, da qua io mi sentono tutti così, quindi non c'è bisogno di niente. Ah, io l'ho messa a 9, come lo chiudi tutti 5? Come lo chiudi tutti, se io chiudo il power non sono 5, se io chiudo il power va a 0, non a 5, il mio va da 0 watt, proprio da un watt scarso sino a 12. Come fai a chiudere il power e ti dà sempre 5 watt, non ho capito. Sarà particolare che secondo te ha portato lui di nutrente. Se c'hai il power esterno, se il potenziometro funziona bene, se chiudi tutti i watt deve dare 0 watt, scusa, il mio lo fa, ho provato il proprio strumento, a 0 proprio, a 0,0 no, ma 500 milliwatt, toh. Capito? 500 milliwatt, toh. Io lo chiudo adesso, guarda, così a 12 watt. Abbasso, piano piano, piano piano, così sono 500 milliwatt modulato, un watt e mezzo. Va bene, va bene. Ok. Ecco perché tu, provando a lineare, chiudevi e ti dava sempre quel briciolo di saturazione. Infatti se regolano devono chiudere, no? Mi sembra sia così, se un potenziometro è giusto deve chiudere, scusa, se c'è lo zero deve andare a zero. Vabbè dai, comunque non c'è problema. Avanti Roberto, riprendi e fai girare. Roberto? Bruno, ci sei? Sì, già, mi stavo mettendo anche la macchina. Perché da casa, perché da casa non ho anche mio, adesso, ho preso me. Sento meglio. Chi è l'altro? Ma c'è Claudio Bombolino, poi non so, c'è Roberto Quadrato, chi c'è di altro? Chi è rimasto? Ma per chi vuoi? Buonasera a me. Buonasera anche a lei. Sono tu e tutti, qui c'è il vuoto. Ciao. Stiamo cercando con lo smartwatch Emanuele, il prosciutto pure c'ha la telecamera nell'orecchio, non senti mai il telefono. Kappa, dai, vabbè, c'è Bruno, c'è Bruno Ragano, c'è Claudio Bombolino, Roberto Quadrato, io, eccetera, eccetera. E saluto a tutti, dai. Bruno Ragano. Vabbè Bruno, ciao, ben sentito, fatti sentire. Grazie. Poco fa quando sono entrato non sentivo bene, c'era qualcosa che non capivo, però c'era qualcosa che aveva un antennino, ma non avevo messo fuori dal balcone, era sotto la finestra della scenaria, Io ho detto buono, non c'è più. Adesso c'è Giovanni a trovare l'antenna. Forse va meglio adesso. Adesso sono andati la metà, scusa. Pure di sì. E metti, se la torna a casa tua come si deve, ragazzi. No, sto usando quella mini turbo. Esce bene, dove sì? Sono già Giovanni Pasco. Però per tre casino. Qua sei forte lo stesso. Claudio. Ciao Tony, buonasera, ben ascoltato, dai. Come mi ascolti in radio, sto usando il Tane più 3, uguale a tuo quello, il Tane più 3B. La voce tua, perfetto presenza, come sempre. È bellissimo quel microfono, Cosa, Anto? Ho detto che quel microfono è bellissimo, ce l'abbiamo avuto anche noi. In passato era una cannonata, era. Sì, va bene, si adegua molto bene con la col Galaxy, capito? Per quello l'ho messo, mi ha fatto provare Massimiliano e ho visto che funziona bene, quindi ci siamo messi alla caccia. Va bene, ciao anche a Bruno, buonasera e ben ascoltato. Roberto, che fine hai fatto? Ok. Dimmi. Come sta facendo il tuo microfono? Passo, no? Sì, passo e ti porti appresso un ronzio, leggero leggero, ma c'è un ronzio. Così? Così non c'è più ronzio, la voce è abbassata ancora di più. Ancora c'è il ronzio? Sì, leggero ma c'è. Chiabagata. Ah, io metti a posto bene le cose. Ciao Tony, buonasera, ben sentito. Dai, Roberto non riprende, Giulio è in quel rix. Io se rimane così pulita la frequenza rimango ancora sino a portare il cane, se no me ne vado. Avanti, mi riprendi. Ocla. E io? Sì, che sono Luca. Ehi Luca. Che hai detto? Ciao Tonino. No, ho detto anche, ho salutato anche a Tonino che è l'ultimo entrato. Mi siete sopra popolati. Ciao Luca. Ciao Tonino. Va bene, dai, riprendi Gianni e fai girare. Ehi, ehi, ehi. Stavo tentando con i due portantini e le cose, no? Già siamo tutti in zona qua, quindi a me non si va di nulla. Vabbè, Tonino, non ti ho visto stasera. Mi hai visto stasera? Non ti ho visto, ho detto. Là. Non mi hai visto là. Cioè? Io vabbè, te lo spiegherò, la prossima volta. Ah, capito, sì. Niente, allora, stamattina ho fatto un piccolo strappo. Ho fatto cose che non dovevo fare. Ho sentito dolore, mi sono coricato, ho preso l'antidrolifico, mi sono cuccato, mi sono bisogno di fare zinco. Sì che mezzo buono. Già, neanche io c'ero, ma non è detto che non abbiamo fatto il nostro dovere. Io ho fatto un telegramma, poi ho telefonato, mi ha risposto Andrea, al figlio, io c'ho il numero di casa sua, capito? Quindi io non ci sono andato perché io ai funerali non ci vado con questa pandemia, no, però il mio dovere l'ho fatto e già. Io non sto dicendo niente, chi si può cavare gli intenti? Io stavo parlando del contonino, stavo dicendo a te. Ma hai detto non ti ho visto a Tonino e quindi mi sono un po' sentito, ma te l'ho già spiegato al telefono, io ho fatto quello che dovevo fare anche perché conosco tutta la famiglia, quindi non c'è bisogno di andare al funerale intanto. Non ti vede lui che sei lì, se non conosci le persone, io ho fatto quello che dovevo fare, ho sentito anche Marino stamattina, quindi no, non c'è problema. Va bene, dai, non fa niente, comunque io non sono andato al funerale. Avanti, riprendi, fai girare. Ognuno ha fatto il suo pensiero. Beh, io ho il numero, quindi ho chiamato, mi ha risposto Andrea, il figlio, che ci conosciamo da una vita. È militare, quindi. Mi ha detto non ti preoccupare, stai tranquillo e sereno. Non ti vede lui per salutarlo, va bene così. Apprezzo il gesto, quindi. Chiudiamo il discorso, che già mi si girano i pipiristi. Era una persona veramente molto molto in gamba, ce ne fossero come Bacchisi. No comment, io non ho detto niente per creare polemiche. Ho chiesto solo a Tonino che come me non c'era perché so che sono molto che anche con Gico erano amici eccetera, capito? Pensavo di trovarli, per quello gliel'ho chiesto, non ho nominato altre cose. Io non so sinceramente neanche dove abitava. Sinceramente lo conosco tanti anni, però non ci siamo mai frequentati. Questo si è sentito a Marachino tante volte. Ho visto di sfuggita qualche volta dove trabacava, sì. ma mai frequentati, come più o meno ci frequentiamo noi di solito, tutto qua. Mi è dispiaciuto moltissimo, ma preghiera l'ho fatto lo stesso, già va in cielo lo stesso. Purtroppo qualsiasi persona che non c'è più ci dispiace, anche se mettiamo trattamenti se non la conosciamo. Quando vedi i giornali, vedi persone che muoiono, che è giovane, ti dispiace perché così dai. Per lui è meglio che lui vive fino a quanto può vivere, solo fino alla vecchiaia, contratta poi. Se succede un incidente o quello che è malattia, eccetera, eccetera, ci dispiace tantissimo. Quindi, un motivo comunque c'era, se non sono venuto già, tutto qua. Avrei chiesto se dove abitavano all'incirca, ma non me la sono sentita, ripeto, per come ti ho avuto anche da poco, già lo sai, quindi. No, oh, vabbè, non era un rimprovero, tu mi era solo una domanda che ti ho fatto. Come mai non ci, perché pensavo che c'era che li trovavo, li capito, invece poi non lo trovo, non vi ho trovato, te l'ho chiesto per quello. Tutto lì poi ognuno c'è secondo i motivi, e ognuno con una preghiera, con un telegramma, ha partecipato lo stesso, non è che io, perché sia andato sia superiore a chi non è andato, assolutamente, io mi sono sentito di andare e sono andato. Ma chi ti ha visto lì? Chi c'era? Ho detto Gianni, chi c'era lì? Di noi? Di voi? Hai fatto le condoglianze a qualcuno? Conosci qualcuno lì di loro? Allora, le condoglianze non si possono fare adesso, perché con la storia del coronavirus, l'ha detto anche il prete, dovete andare a casa sua a trovarvi per fare le condoglianze, perché non si possono fare. E di gente ce n'era, anche i cibi ce n'erano abbastanza, no? Ne ho visto dei versi. Tu li hai visti lì, ma io li ho visti a casa sua però, perché io ieri mattina sono andato a casa sua. Anche io, stamattina. Quindi, diverso discorso, già, io l'ho frequentato per anni a Battice, però buon'anima di Torellai. Quindi era doveroso, visto che conosco il figlio, conosco la figlia, conosco la moglie, conosco tutti, quindi per me era un'altra cosa, te l'ho già spiegato al telefono, non è che potevo partecipare a altre cose. L'ho fatto per conto mio perché era doveroso farlo, capito? Tutto qua. Anzi, è che mia moglie non poteva, non cammina ancora bene, ancora in convalescenza, se no dovevo venire anche lì, perché ti ripeto, ma chi ci ha fatto anche lavori a casa mia qui. Va bene, dai, chiudiamo il discorso. Stia in pace, riposi in pace, perché ripeto, una persona che veramente era una grandissima persona, adesso non c'è più, e viva Gesù. Vabbè, torniamo, cambiamo il suo discorso, ritornando al discorso di prima, all'inizio appena sono entrato, che Claudio ha detto, se rimane così pulita la frequenza, quindi una curiosità, perché cos'è sporca? Sì, abbastanza in questo periodo, molto sporca, c'è gente che disturba e tante altre cose che non vanno bene, comunque, poco fa tu non c'eri, c'era una portante che è sempre solita tran, infatti pensavo che eri all'ascolto perché solo tu potevi confermarmi quello che io ho sempre in mente, però anche questa volta non c'eri. Va bene, dai, chiuso i discorsi, Tonino, non mi interessa, io adesso mi sto abituando, mi voglio abituare ad una cosa sola, non mettermi in mezzo ai fatti di nessuno, stare per i fatti miei, parlare quando mi rilanciano il microfono, essere interrogato quando mi interrogano, poi tutto il resto è noia. Avanti Antonio Bombolo, fai girare. Kappa, là. Già l'abbiamo capito che problema. Kappa, uia. Vabbè, come ha trascorso la giornata oggi? Tony, hai fatto il monello, hai fatto. Ti sei messo a fare cose che non dovevi fare. Piano piano. Tonino? Beh, non mi sente più nessuno. Ah, boh, non so. Non lo so, uno sta parlando, poi se ne va il telefono, cosa vuoi ti faccio io? Boh. Dai, Anto, ti saluto, dai. No, non è che posso stare qua. Uno sta parlando, rilanci e si mettono a telefonare. Dai, ciao Anto, ci sentiamo. Buona serata a tutti e buon fine domenica. Ciao, ciao. Ciao, già ci sei. Ciao, ciao Claudio, chiudo anch'io. Ciao, ciao a tutti. Ciao Giulio. segno di maleducazione, non viene bene a dirlo. Vabbè, ciao Giulio, buona serata a tutti. Ciao, Giulio, ci sentiamo, state bene, ciao. Ciao, ciao. Oh, che c'è, uragano? Chiudo. Ma fate piacere, sì. Sono entrato a passare per salutare gli amici, purtroppo. Ho avuto una brutta notizia, infatti, sono entrato. Oh, Gianni, ci sei ancora? Mi senti, sono lì. Ah, io il cellulare lo posso sequestrare, eh? Vabbè, buonasera, Bruno. Stavo dicendo io faccio sequestrare i cellulari, eh. Sono scappato da casa poco fa, ero a casa. Sono confuggito perché non c'era la paranoia, vedere gente che si fa attaccare i cellulari. Io non voglio sapere. Agarudi. Allora, io forse sono... Non lo so, un caso raro. Io vita mia non mi hanno dato un sms, scusa il telefono per telefonare, perché molte volte mi mandano messaggi su WhatsApp e poi mi sono mandato a me. Non ha detto mai. Cioè, mi è rientrato, sì. Non lo so, no. Cappa. Stavo leggendo, ma... E che zona sei tu? Adesso sono qua. Sono a luna e sole, una parte verso le queste. Cappa, mi arrivi forte, mi arrivi abbastanza forte. Dipende dalla tua zona, io sì, sono abbastanza in alto, per cui diciamo che la città è vita, ma non è la tua zona, sono un punto più alto, proprio su a tutti, in una via che poi, un viottolo di campagna che poi va a finire verso la Viuso. Cavolo, per essere lì c'è 9.15, non so tu come mi senti. Ma tu arrivi benissimo, è una radio molto nitida, molto bella, pratica, sembra una radio proprio di presenza. E io poco fa mi metto un antennino in casa, ma non c'è più niente. Allora le persone in macchina, perché sentito gli amici che parlavano di fatto che è successo, siccome l'amico io sono contato, non dai contatto, allora vabbè, poi ci rimetto una canna in macchina, e così mi sento bene, ho ascoltato tutto, ho fatto. Vediamo se è diventato qualche altro. Io mi ero sentato un attimino. Claudio. Claudio ha chiuso. Così veloce. Vabbè. Andrà bene. Niente, sono andato un attimo in bagno, devo fare cose di dovere, giustamente mi ero spostato. Quindi non so se mi avete chiamato perché ho inserito le cuffie e quindi non sento tutta la ricezione. Va bene. Chi c'è più? A chi c'è rimasto? Ci sono io e Bruno Uragano, ci sono. C'era anche Gianni qua, Gianni ci sei? Sì, ci sono, sta ascoltando, va. Ok. Bruno, la voce mia, sempre quella, sì. Avevi spalatissimo. Sì, ma perché la zona è sicura, ci provo che non è detto l'altra volta. Io ho fatto la mia forse perché la zona io sono una zona e quindi sono con la città, una zona morte, la dolce, la zona. Beh, io sono in zona San Camillo, vai, la verità. Sì, la zona che sono io. Io di fronte, io da San Francesco, di giorno, vedo il Belvedere, vedo la zona di San Francesco. E da quella zona lì, sì, sono tutto il sotto, sono una zona molto libera per me. Ma va bene. No, io sono un po' in alto, perché io vedo Sassari in basso. Io sono a punta alta. Ma ecco, vedi, la zona San Camillo, vedi, andiamo verso San Camillo. Io sono qui dove la statua. Ma io sono dove che è giunta la zona di Caterna. Certo. Sono in alto perché vedo Sassari, tutto qua. Andrà bene. Oh, Antonio, cavolo. Allora, mamma mia, quando mai ti metti a fare quelle cose pesanti? Piano piano, ti volevo dire poco fa. Perché sei tutto saturo, tu? Come tutto saturo? Io sto sotto saturo. Compresso. Ma non posso, va meglio così. Stacca. No, non va giù da attaccato in occhio, no. Adesso è un po' meglio, si capisce, eh. Prima se vuoi su una patata in bocca, eh. Non è che rimane niente, eh. KK, così va meglio, no? Sì. Ho toccato una cosa che non dovevo toccare. Ero bisogno di un cellulare, ma ha toccato una cosa. Non la buona a me. Bello. Detto che c'era già. A poco sei in alto adesso? A Santo Francisco. Monte Bianchino, sì, che la conosco. Io mettevo sempre lì, c'era il parcheggio delle querce, di fronte alle querce c'era il parcheggio e mettevo lì per fare di ex, però adesso è chiuso, mi sa che non fanno più entrare, se non devi andare via alle querce non ti fanno più andare. Mi andavo quando ero ragazzo a crocerare, gà. E anche io. Altro mazzato. Bruno, via, me ne arrivo. Oh, Bruno, me ne arrivo a quelle zone. Benissimo. Sì, bello, sparato. Segnalo, un bel segnale, ma non la radio non si sta. Meglio così, cioè va bene. Eppure ti giuro, quando ho piazzato l'antenna qui, mi sono detto, chissà se arrivo bene a Sassari. Va bene, va bene. Quindi, Gianni, c'è un bel palazzo, alto, l'antenna sopra, bella zona, e lo so di più. Io poco trattare un posto, ma già va bene lo stesso. Io anche l'altro giorno ho parlato con Lecce, tranquillamente, senza attaccare nulla. Poi gli ho chiesto se è attaccato, distorcendo, ma ha detto, no, la radio è bellissima, allora vuol dire che è lontanata, va bene. Beh, c'è una bella zona, quello sì. Senti, ho dei dubbi, niente, il mio fiducio, poi il cucato, riferimento Antonio, bombo, sì, si è fatto lo strappo perché stavo cercando un qualcosa, che non mi ricordavo l'ho messo, quindi... Cercando tutte le parti, inchinandomi, sdraiandomi, eccetera, eccetera, ciò con i punti dietro la schiena, cavolo. Ho sentito un dolore, ho detto, basta, non cerco ben nulla. Non faccio più niente. Tauri, te l'ho detto, che devi stare a riposo almeno 2 settimane, tranquillo. Se fai strapparti il peggio, poi non guarisci più, mi dice, ti sei riaperto la ferita, guai. Beh, lo so, no, ce la faccio sempre per sicuro, dai, non faccio più niente. Le cose più leggere in casa, poi mi corico, mi sdraio, mi riposo. Anzi, dolorifici e buco. Allora. Quando c'è proprio il dubbio, stai tranquillo, vi passo a tutti i macchini che c'ho in testa. Cavolo, ma veramente bene, cavolo, da quella zona, eh. Attualmente sono aperto lì, Dove Bruno? Dove Bruno, cavolo, mi arriva bene, bene proprio. Beh, tu sei la parte bassa della città, capito? Quindi c'è qualche punto di riferimento, ma io sento tutti bene, grazie a Dio. Sono così sono io, non ho andato a casa, ma devo andare in giro da. E metti, te l'ha brutta la tua, te l'hai messo, te l'hai tu niente, boh. Ok, ok. Adesso siamo in loco. Mi hanno detto che c'è la possibilità di fare questo, però come c'è un attico e c'è di proprietà? Non è che non è che devi aspettare questa cosa, dentro casa tua, guardare la stella, magari in un altro giorno, è come non cercavo, no? Devo trovare il tempo per trovare un amministratore e vedere poi se si può fare la stessa cosa, se no sono forse da fare una scala aerea alle spese, che rispetto per come metto parte, infatti da casa usano anche qualcosa. Io ho un patentino per la scala aerea, in quel caso. Prendi il camioncino e vai. Sì, ma si paga 150 euro al giorno, capito? E il vero patentino se non te lo danno. Oppure te lo danno con l'autista e costa molto di più. Era c'è altro sistema per mettere la salvetta antenna. Stavo parlando con l'amministratore, per vedere, proviamo noi. quella della televisione, la quella centralizzata. Per il periodo di fuori, sarò così vicino. E si è a posto, non ho preso caso nessuno. E lo fai TV hai? No, no, non ti mettere troppo vicino agli antenne TV. Ma non puoi dire, perché c'è un pezzo, dove c'è l'antenne TV. Però tu, tipo, adesso ho ordinato questa benedetta antenna, questa buona, quella lunga, che dovrebbe scusare. Adesso una fila di barucco di 2 mesi, non è ancora venuta. Una turbo, una mini turbo già da 3 mesi, capo, l'ho detto che me la stavo ordinando, da cui ieri mi ha chiesto se avevo ordinato l'antenna, ha detto perché non è ancora ordinata, no? E io ia. Ma non ci dici Bruno? Ma sì, ma non ha fatto la tua cosa, non lo vedo, non lo vedo, ma adesso una settimana l'antenna era qua, è passato un mese, ah, lo dico, sto aspettando la spedizione, non ti ha fatto la spedizione, ma forse nel tuo paese, vabbè. Ma ah, guarda, mi pare che ci sia anche su Amazon, la ordini e in 3 giorni ce l'hai a casa. Io l'ho preso lì al CBC, comprata, messa per fatta. Ma sono andato al CBC, non è altro, non è vero. A me l'ho presa più di 1 anno fa. Ma no, ma non c'è una cosa, non c'è una cosa di campo, non c'è una cosa. E poi sta per parlare per un settore nautico, forse. E però non ho fatto niente. Poi ho fatto un studio, ho fatto delle notizie. Ah, no. Se la prendi da internet, Bruno, l'antenna in 3 giorni ti arriva, ce la devi prendere, prenditela da internet. E cosa ci vuole? Sì, ma questo imbecille non ha detto, guarda che quando arriva subito perché è stato per la spedizione quando si alza una periodo. Ma non è che dopo un mese, cioè, non c'è detto così. Sto aspettando, mi devo fare la spedizione, forse la scuola è entrata, ma fate la spedizione. Io ti dico una cosa, diciamo che se ci fossero stati più negozi, più concorrenza, magari ci avrebbero dato un po' di velocità facendo le cose, perché anche il capo, io gli ho detto se ci aveva un capo, praticamente mi ha detto che lo devo ordinare, che l'ha chiesto molta gente, però ancora non l'hanno ordinato. Se tu ordinalo però che sia subito, perché se no lo dirò da internet. H155 che su internet lo vedono anche a Mattasso. Ma cos'è quel carro? Cos'è quel carro grigio? Tipo l'RG58? Tipo l'RG58, l'H155, appena più grossetto, ma malleabile, non è come l'RG8 per intenderci. Lascia perdere quello grigio. Non l'ho mai visto neanche questo campo, avevo 40 anni e non ho comprato il campo, sono andato, ho comprato una decina di metri di carro di 58 per fare questo allaccio, questa antenna, però gli ho chiesto se c'era qualche questo campo, se erano impiegato, è migliore, sì, deve arrivare. La 50 tocchiano adesso, è doppia casa, perché l'ho preso io per fare degli spezzoni, che ho fatto degli spezzoni ieri e mi sono comprato 4 PL che sono arrivati, tra l'altro se ti interessa, 4 PL macchinite e poi mi sono comprato 13,50 per doppia calza di quello che praticamente c'è la calza più c'è la stagnola sopra. Perché non ho comprato anche io, quello che non era per me, però il cielo che va là, non è che l'ha fatto, perché erano quelli plastica, quelli vecchi che avevo io, infatti lì, li sto usando adesso, perché infatti io ho trovato, ho fatto di roba, di quei tempi, quelli vanno buoni. Questo qua sono andato a salvarlo l'altro giorno, era la settimana con il plastica. No, la plastica non serve, adesso li sono arrivati quelli in macchinette, quelli che si avvita, non c'è più bisogno di aprire il coso e metterci la massa, eccetera. Si avvita la massa direttamente e poi si di polo centrale. Nessuno, nessuno, uno. Mi meraviglio di te che sono io CB con PL in plastica ti sei sciolto. Guarda, io ce l'ho anch'io in plastica. Ma il mio saldatore che è professionale, non l'attacco io al polo centrale del PL, perché so che c'è la plastica intorno, si surriscalda e si scioglie la plastica. Io mi scioglio sullo stagno, va colato dentro, saldato, finito. Ed è perfetto. Ma Ma già c'è quello che è successo, io ho dovuto smontare per mettere su un altro carro, per smontare la mia. E cosa è successo? Quando sono andato a appoggiare il saldatore, chiaramente una persona di carro che ha detto ha aspettato qua a uscire. Avevo convertirato, che ha fatto la riduzione, vai a fondo e travare. Sì, se devo rifare giustamente si surriscalda, no? È un casino. Ma io non ne ho trovate in macchinite, quindi. Vabbè, ciò con in plastica, grazie a Dio, ne ho spezzoni. Vengo a rompere così. L'ho fatto come Dio comanda. E la misura che piaceva interessava a me. Tutto qua. Bene, signori, io mi devo allontanare, che mi preparo un po' la cena. Spiego tutto, mi guardo poi la giornale. Tutto qua. Ok, vi ringrazio per la questione. Ciao Tolomolo, ciao Gianni, ciao Bruno. Fatevi sentire più spesso, dai, che poi già entro più spesso anch'io. Ok, buon proseguo, riprendi Gianni. Ciao a tutti i tuoi ascoltori. Ciao Torino, dai, buona carica quando la fai. Ricordati quelle patatine che ti ho detto. Di andare a prendere, che poi non li voglio più. Avanti, avanti. Oh, io l'ho studiato. Oh già, devo chiudere io, va, ci sentiamo dopo, ok? Ehi, ciao. Sì, io addirittura c'avevo con l'antenna che si attaccava direttamente al baracchino, con l'attacco a L, ce l'hai presente, si attaccava direttamente, si attaccava il PL, c'era l'antenna al piede attaccata. E inizialmente modulavo con quello, ti parlo di 45 anni fa. Sì, quello è il tuo ricordo. No, ricordo l'antenna a no, per cui io posso utilizzare quello, ma da casa, poi dentro casa, un filo. Tanto tanto l'ho trovato, poi alla fine, io una volta ti ho anche incrociato a Monte Bianchi, non a Monte Bianchi, no, a Viale San Francesco, mi ero sparato, mi sono fermato per quello. No, non ti ho visto, ti ho rilassato il giorno invece che avevo preso per parlarvi, ti ho visto col cane lì alla rotatoria, mi stavo salendo dal medico, dunque era tardi, e non so, non so, se la gente mi sente. Ma che cane è? Un cane di Chitimari. Insomma, se non conosce la gente si salta addosso. Se la conosce gli fa, gli dà il cuore, ma se non la conosce gli salta addosso. E cosa ti stavo dicendo? L'hai visto quello di Lucia? Quello di Lucia? No. Sì, è poco bello. Poi l'altro giorno mi ha suonato il campanello, l'avevo appena ritirato. E un coso, come si chiamano? Sono tipo barboncini, ma non mi viene adesso il nome. Bianco, bello, un baltufo di cotone. Era piccolino, un martese di Maltese. È un maltese, sì, esatto, non mi veniva il nome. Sì, no, piccolino, ci avrà due mesi. No, io non l'ho più visto a lui, non ho pensato con niente, però mi aveva detto mia moglie, un giorno fa, che sì, allora, questo è un po' camminino. Ma gli sono grosso da vista, di travata. Devo lasciarlo da solo a casa, magari il cane ordinare, fantasino, banca. Perché noi ne abbiamo uno vicino a casa, un barboncino, una cooperativa da noi, che è da sotto. Tanto la mattina quando lo lasciamo solo fa un casino della Madonna. Basta, sta la mattina tagliata. No, è mio, no, quando andavo a lavorare anche a Torre rimaneva da solo, senza problemi. Quando tornavo mi facevano le feste. No, la verità, Tyson è stato sempre tranquillo, non ha mai abbaiato, non è cane che disturba. Io però cane, l'unica cosa che abbaia, non cane, quando suonano campanella, oppure quando io sto arrivando in macchina, se sono la strada, facendo una rotta tua, ma facendo un giro, e sono adesso 2 a 50 100 metri da piano, ti sudano la lampada di là, mi conosco da macchina, perché passano 50 macchine e uno si muove. Quando sto arrivando la anche con una macchina di amore, quando sto arrivando io comincio a pagare, mi secca perché non stai a cavallo, magari fa un po' di carino, però per il resto no, tranquillo, abituato a stare solo, e la mattina vado adesso a casa perché questa volta non la porta principale, di lontano, cioè quasi tutte le mattine vado a Plata Nuova a camminare, non so molto con tutti a lui, ma mancare per cui non è neanche molto impegnativo. E io so che abbiamo buttato un altro di Yorkshire, se non erro, vero? Come? Ne hai avuto anche un altro di Yorkshire. Guarda, questo è il testo, questo è il testo. Mi è morto un cane, un Yorkshire, 2 anni fa, non ce l'avevo, 14 anni. Era un cristiano, questo non l'aveva che era già grandetto, aveva già 2 anni e mezzo, poi un cane molto simile, a piccone, cane che ha paura di tutto. Dunque, lui era già grandetto. L'abbiamo trovato in una campagna, abbiamo abbandonato la sua partita, che si era l'altro. Dunque mi aveva la testa, il verbo, il costante, la pazzetta. La pazzetta l'abbiamo portato via. Ed è rimasto un cane un po' così di altri problemi, un po' per problemi di piatti. Però un cane bravissimo, ma l'altro che aveva, che è molto bello, stato già, solo era un cristiano, ma dove ce l'avevo fatto un cristiano? Lui diceva, un cristiano. Questo, se lo progettuvi, scappa due stadi e si chiudi. Quello là, facevo io, dove abitavo prima, era il balcone, la testa era 2000. Pugliava la rincorsa e vedete un cane volante si chiudeva fuori da cosa fino alla vagina e la buttava. Io stamattina ero a cercare il cane di un'amica mia che c'era riuscito in campagna, ha fatto il fosso, se è andato sotto, è scappato nella campagna che praticamente è attigua quella vicino, è andata a chiedere e ha detto che loro visto nessun cane, ma secondo lei dice se l'hanno preso loro, hanno visto che era bello e se l'hanno preso. E l'abbiamo cercato a tutte le parti, sono invidriati, dalla parte di Porto Torres, dalla parte di Sorso, sono andato fino a Platamona, dalle Pinetti, da tutte le parti dei vicoli, da tutte le parti l'abbiamo cercato, non c'è niente, sicuramente se l'hanno preso qui. Allora, perché quando è passato da sotto, ma più bello cercando la schiaffa, si è passato, ma tutti, cioè, il tipo di cane è durato, da prendere, ma il momento, se è più grande, da sotto, probabilmente che si è scappato, se è stato piccolo, che non è abituato, probabilmente, non c'è da più, Allora, New Yorkshire è come quello tuo, capito? Però non è proprio puro puro, incrociato con un barboncino, mi fa. E che cosa ha fatto? Ora sono i vidri acidi, a metà lì. È presente dove c'è il primo coso della foto, dove c'è l'incrocio. E a metà per più avanti, verso Porto Torres, per andare verso Porto Torres e abita lì vicino. È scappato da lì, abbiamo cercato tutto lo stesso di vidriarsi da una parte e dall'altra, lì ci ha fatto girare anche nei viottoli da tutte le parti, non c'era nessuna parte. Addirittura stamattina cercando lui ne ha trovato un altro che era in mezzo strada, che attraversava e hanno rischiato di investirlo per più macchine, allora lì si è fermata, se l'ha preso pensando, guarda, era preciso identico al suo, dice già, se non fosse stata una femmina avrei creduto che era lui. Se l'ha preso lo stesso, adesso dice che lo mette su Facebook, eccetera, e guarda se c'è il microchip e così lo mettono al padrone, perché ha rischiato di essere investito. Sì, ma a parte mi conviene anche a mettere anche il microchip, perché lo mettere fuori dalla porta, perché noi, 6 anni fa, a Platamona, abbiamo visto un cane, abbiamo visto un giorno, era lì, e magari un rosso così nella campagna, c'era una cosa foto ho visto la seconda volta, questa volta sono messo alle mani e le volevo dire a vantaggiare. Ha giudicato un corso, ha giudicato un cane, ho portato a mettere l'aria, che ha messo questa foto e abbiamo telefonato. È praticamente scappato, ma grazie a questo amico mio che c'ha sempre la medaglietta, c'ha sempre la catenina, il giorno che è scappato non c'aveva medaglietta, gliel'aveva tolta perché andava a grattarsi e quando andava a grattarsi gli si infilava lui a quella laterale e gli si infilava dentro l'anello e si bloccava la zampa così, molte volte ne è successo, quindi quando arrivava a casa gli rompo dietro. Thank you.